Bentornati su RadioBigWar.com, gli irrinunciabili. Prima di iniziare però vi ricordo che ho appena aperto un canale di YouTube, La Mansarda del Dottor Pirates. Arrivarci è facile, vedete sopra dove c'è scritto Speaker, a fianco c'è scritto Dottor Pirates, cliccate su Dottor Pirates e vi ritrovate nel mio canale. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale di YouTube, partecipate alle discussioni o iniziate nuove discussioni, sarebbe una cosa veramente fica e lo apprezzerei tantissimo. Vi aspetto. Benvenuti nella mansarda del Dottor Pirates, un luogo dove Nicolas Cage è una leggenda, una istituzione, e dove Con Air è un film speciale, perché normalmente sarebbe un B-movie, di quelli veramente brutti, con attori di fascia bassa, fotografia scadente, via dicendo, e invece no, per tutta una serie di ragioni, alcune comprensibili e altre no, non lo sapremo mai perché, è talmente assurdo che si prende talmente poco sul serio che è come se facesse tutto il giro completo di 360 gradi, partendo da presupposti ignobili per ritornare con un cast stellare e tonnellate di carisma. Questi sono eventi rari nel cinema. La trama è semplice, come giusto che sia. Abbiamo Nicolas Cage, con un look improponibile, che si ritrova su un aereo pieno della peggiore feccia dell'umanità. Si tratta di trasportare dei galeotti dal punto A al punto B. E lui è lì per caso, omicidio colposo, perché ha difeso sua moglie da un branco di buzzurro ubriachi e ci è scappato in morto. Ovviamente la feccia prenderà il controllo dell'aereo e toccherà a Nicolas Cage salvare la situazione. Grazie alla sua canotta bianca, probabilmente presa in prestito da Bruce Willis, è una capigliatura selvaggia che ipnotizzerà lo spettatore più debole e sensibile al suo fascino. Non mancheranno le battute completamente fuori luogo, scazzottate, esplosioni, piomba volontà e anche coniglietti di peluche. Tra la feccia spiccano John Malkovich, Cyrus the Virus, la vera mente criminale, l'unico che mantiene un po' di credibilità in mezzo a un branco di mentecatti. Poi abbiamo Ving Rhames, ovvero Marcel Wallace, ovvero Cane Mastino, nei panni di un grosso militante nero. In carcere ha scritto un libro intitolato La rabbia del mastino. Poi abbiamo Steve Buscemi, un pazzo serial killer, però molto calmo. E Danny Trejo, uno stupratore seriale. Un bel ambientino, insomma. Abbiamo poi un poliziotto incazzato che vuole distruggere tutto e non riesce a parlare con un tono di voce civile. E uno bravo, con le fattezze di John Cusack. Il cast fa tanto, come del resto Nicolas Cage che corre al rallentatore con i capelli al vento in mezzo a esplosioni e pallottole. Però alla fine bisogna dare atto che si è voluti andare fino in fondo, nel senso che si è deciso di fare un film assurdo e dalle premesse improbabili. E si è stati premiati per questo, perché chi osa vince? Ma d'altro canto, quando c'è un aereo che vola con un gancio a cui è attaccata una macchina sportiva, significa che una vittoria, se non altro personale, è già stata raggiunta. La violenza poi che vediamo su schermo è in un contesto così assurdo che è più simile ai calci in culo che si tirano i pagliacci al circo rispetto a una drammatica lotta per la vita. Io penso che questo film rappresenti la perversione che ogni amante del cinema d'azione dovrebbe tenere nascosta, perché è impossibile non amarlo, ma è anche vero che è una delle cose più insensate, rumorose, stupide e selvagge uscita fuori da Hollywood. Qualcuno diceva che il bello c'è in ogni cosa, basta guardare bene, per cui voi Con Air guardatelo bene. Nel suo essere completamente incurante di quello che fanno gli altri, Con Air diverte anche tanto. E non gli importa di cosa pensano i soliti snob, perché lui sa chi è, e non è mica poco, e poi ha convinto attori di prima categoria a partecipare a questa pagliacciata, un'impresa lodevole. Non mi dilungo ulteriormente, andate a vederlo o rivederlo. Birra ghiacciata e rutto libero. Ci vediamo.